America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, svolta americana in materia nucleare. Il presidente Barack Obama annuncerà fra poche ore di aver deciso di limitare le condizioni per le quali gli Stati Uniti si riserveranno il diritto di attaccare per primi un altro paese con armi atomiche. Una vera e propria svolta, perché finora gli Stati Uniti questo diritto se l'erano riservato. Queste notizie giungeranno nel Nuclear Posture Review, un documento dell'amministrazione molto atteso, che farà da punto di riferimento per i prossimi vertici, quello di Praga che si terrà l'8 di aprile e poi quello di Washington del 12 e 13 aprile, al quale parteciperanno 44 paesi, due vertici, dicevo, dedicati appunto al disarmo atomico. Che cosa chiede, che cosa vuole Barack Obama? Beh, per esempio, il presidente americano ha deciso che gli Stati Uniti non produrranno nuove armi atomiche. È una decisione importante, perché è una decisione che Obama prende contro il suggerimento, il consiglio di Bob Gates, il segretario al Pentagono, il quale invece aveva caldeggiato l'idea che gli Stati Uniti continuassero nella costruzione di nuove armi atomiche. Non solo, per la prima volta gli Stati Uniti annunciano formalmente che non useranno armi atomiche contro paesi che non abbiano a loro volta armi atomiche e che soprattutto abbiano sottoscritto tutti gli accordi internazionali contro la proliferazione nucleare. Con una aggiunta, Barack Obama non attaccherà quei paesi che non detengono armi atomiche, anche nel caso abbiano usato delle armi chimiche contro gli Stati Uniti. Dunque una svolta d'insieme che crea le condizioni perché gli Stati Uniti si presentino a questi vertici con maggiore credibilità, perché possano chiedere ai loro interlocutori concessioni sul fronte nucleare e soprattutto un consenso generalizzato per poter passare delle sanzioni contro l'Iran. Perché ha detto in un'intervista al New York Times uscita questa mattina di essere convinto che Teheran avrà armi nucleari entro breve. A year ago we were losing 600,000 jobs a month. Now the process of job creation has started. We expect that it will accelerate. Larry Summers, il responsabile del Consiglio per la sicurezza economico del presidente Obama, e dice la musica è cambiata. Sta parlando di occupazione, sta parlando di economia. Un anno fa, dice Larry Summers, importantissimo economista, e ricordiamolo, fu segretario al tesoro con Bill Clinton, un anno fa, dice, perdevamo fino a 600.000 posti di lavoro al mese. A questo punto la questione non è più quanti ne perdiamo, ma è quanti ne guadagniamo. E difatti nel dato sull'occupazione di venerdì abbiamo visto che c'è stato un aumento di posti di lavoro di circa 160.000 unità. È il primo dato importante in questo senso, un dato che dovrebbe rassicurare la borsa, che viaggia sempre attorno a quota 11.000, ma anche un dato che potrebbe essere a doppio taglio. Perché? Beh, perché la Federal Reserve, come sappiamo, ha annunciato che nel momento in cui l'economia dovesse riprendersi e dunque si dovesse uscire da questa crisi strutturale in cui l'economia cresce ma non viene accompagnata questa crescita da un aumento dell'occupazione, la Fed immediatamente cambierà politica monetaria, e questo cambiamento è molto temuto dai mercati. La prenderanno bene, nel senso che con un maggior numero di occupati ci saranno più consumi, la crescita diventerà sostenibile, quindi ci si comincerà a muovere in un circolo virtuoso, oppure la prenderanno male perché l'economia di fondo resta debole e dunque la Federal Reserve con una stretta monetaria potrebbe improvvisamente mettere in crisi questa economia. Ecco, lungo questo percorso si giocherà il futuro dei mercati, quindi molta attenzione a questa dinamica. Summers sembra indicare la via, l'occupazione sta tornando, però aggiunge una nota di prudenza: non tornerà comunque in tempi straordinariamente rapidi. Come dire, il peggio è passato, ma per tornare ai livelli di un tempo forse ci vorrà un po' più di tempo. Quick question: are they allowed to be conservatives? They're allowed to be whatever they want to be. They are, and all they feel completely free. There's no sense of we're in the arts. The voce aggressiva, provocatoria, pungente è la voce di Peggy Noonan, che fu già l'autrice di molti discorsi di Ronald Reagan, cattolica, conservatrice. Peggy Noonan, in questo breve scambio che abbiamo ascoltato, chiede al suo intervistatore in una rete televisiva se certi insegnanti possono essere dei conservatori, e lo dice ovviamente in modo provocatorio perché ritiene che ci siano delle intimidazioni da parte della sinistra. Beh, perché chiamiamo in causa Peggy Noonan? Beh, perché è intervenuta lei, donna cattolica conservatrice, nel dibattito sui preti pedofili. E la sua posizione è una posizione istituzionale che scende in campo per difendere la stampa. Peggy Noonan dice: ci sono delle istituzioni che ritengono di essere in qualche modo invulnerabile, per esempio i legislatori a Washington, per esempio Wall Street. Abbiamo visto che sia a Washington che a Wall Street questo senso di invulnerabilità porta poi a dei problemi. Secondo Peggy Noonan, anche la Chiesa Cattolica ha peccato in qualche modo di un sentimento di invulnerabilità. E secondo lei è stata la stampa che, con le sue storie, con gli articoli così che hanno rivelato alcuni degli scandali, hanno in qualche modo aiutato la Chiesa Cattolica a uscire da uno stato in cui così si cercava di negare, si cercava di allontanare il rischio dello scandalo, ma ha costretto invece la Chiesa Cattolica al confronto. E quindi, in un articolo uscito su Wall Street Journal alcuni giorni fa, che ha fatto sensazione, Peggy Noonan dice che la stampa è stata la migliore amica, e cito letteralmente, della Chiesa Cattolica su questa questione, perché l'ha costretta a confrontarsi con uno scandalo che avrebbe preferito evitare. E dice che in qualche modo la Chiesa è stata costretta a confessare, e dunque in questo contesto in cui lei stessa difende l'azione della stampa, conclude dicendo che la Chiesa non dovrebbe recitare un j'accuse contro la stampa, ma dovrebbe piuttosto ringraziarla. I need to be a better man going forward than I was before. Devo essere un uomo migliore. Conferenza stampa ieri di Tiger Woods, che si prepara a tornare sul campo da golf nel grande torneo di Augusta. E dunque il grande campione si confronta di nuovo con l'opinione pubblica chiedendo per l'ennesima volta scusa. L'America è un po' stufa di questa storia, ma si aspetta almeno una prestazione importante sul campo da golf. Vi accenno un'altra notizia, secondo me abbastanza importante. Un miliardario americano, Wilbur Ross, ha accettato di acquistare per 100 milioni di dollari una quota della divisione finanziaria di Richard Branson, il miliardario della Virgin, conosciuto più per i dischi e per le sue linee aeree che per le attività finanziarie. Questo consentirà all'istituzione finanziaria di Branson di riprendersi e gli consentirà di essere molto più aggressivo sul mercato britannico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo Google, la Cina rifiuta anche Bob Dylan, il grande cantante simbolo della protesta, passato un mese fra Giappone e Corea del Sud. Voleva andare anche a Pechino e Shanghai, ma il ministro della cultura cinese gli ha negato il permesso di esibirsi in Cina. E dunque a lui, eroe della protesta e simbolo della rivoluzione che la Cina una volta conobbe, dedichiamo Blowing in the Wind. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento domani. Goodbye and get going!